stato facile, lo so, saltare fra i muri e non so, ma da quando il ragno mi ha morso sono un ragazzo diverso. Non è certo semplice, però, e il coraggio lo troverò. Da quando ho finito il mio corso mi si è aperto un nuovo universo. Da un piccolo lavoro inizierò e le spese mi pagherò. Farò economie come un orso, se no quest'inverno son perso. Il mio amico Henry trovò lavoro dal padre, o che so. Per vincere ogni concorso ci vuole un contatto trasverso. Mi son venduto anche il paltò. Lavoro ancora non ho. Mi hanno offerto un piccolo sborso, però il posto è molto controverso. Ci penso un pochino e non, questo non lo accetterò. Non presterò mai il mio dorso a chi distrugge il mondo emerso. I grandi criminali ci vogliono agguantare, molti miei coetanei riescono a circuire. Voglio che per loro andiamo a lavorare, aiutarli attivamente, il futuro a far marcire. Forse ogni tanto mi riescono a tentare, ma so che cosa mirano, non mi farò irretire. Si fa certo fatica tra i palazzi a rimbalzare, ma io dei principi non mi farò mangiare. E quando la fame mi fa stravedere, quando dal freddo congela il braciere, infine trovo un posto da uscire. Poi ho fortuna e divento pompiere. Lo vedi che in fondo se ti fai valere, tra la gente onesta riesco a sedere. I grandi criminali ci vogliono agguantare e molti miei coetanei riescono a circuire. Voglio che per loro andiamo a lavorare, aiutarli attivamente, il futuro a far marcire. Forse ogni tanto riescono a tentare, ma so che cosa mirano, non mi farò irretire. Si fa certo fatica tra i palazzi a rimbalzare, ma io dei principi un ragno è duro da ingoiare. Ma da quando il ragno mi ha morso, sono un ragazzo diverso.